quello era un meteorite o qualcosa del genere, mi sono subito scansato e caduto sulla spiaggia. Ed era una di quelle lanterne cinesi, l'uso aveva fatto uno scherzetto, mi aveva messo, come si chiama, la diavolina in questa lanterna cinese per fare più luce, aveva messo la diavolina, ma ti abbagliava. E non vedo che la sera era azzurra, è sempre pieno di niente, chi la sera non verrà nessuno. Per le coppiette, non l'ha fatto per le coppiette. No, l'ha fatto perché lo sapeva che c'ero io, per farmi uno scherzo a me. Ah, ho capito. Ui. Stai cominciando il vento, comincia a sentirlo già da qua. Speriamo che tenga questa antenna. Le ho messo tirati, vabbè, speriamo che non mi spacchi la saldatura che c'è tra la bobina e l'alluminio. Dello filo, capito? Quella è debole più che altro. Se parte quella, in pratica non esci. Capito? Esci basso, la ricevi, però è come se fosse senza antenna. Tutto lì. Evidentemente quello di cosa di che c'è a Ottava c'è lo stesso problema, senza problemi, lo filo con la, c'è una cosa, l'antenna con la bobina risaldata. E l'ho avuto anch'io con l'antenna, però era buona, cioè perlomeno proprio io c'avevo un terrazzo, magari era un po' più riparata, però arrivava a stasera alla grande con l'energia 5 ottavi, quella arrivava a stasera alla grande, lui stava uscendo solo col filo. Sicuramente. Ragazzi, io vi devo salutare. Ci sentiamo un altro momento, dai, il dovere mi chiama. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao ciao Gianni, ci sentiamo. Ciao Gianni, stanno bene. Buon esempio, ciao alle prossime. Ciao Gianni, il caffè, ti indimmo. Ciao ciao. Quando stiamo dicendo, quelle energie sono antenne d'appesto di quelle leggere. Sì, arrivano bene, ma materiale leggerissimo. Si drocca subito. Alluminio, è alluminio, cosa leggerissimo, è alluminio. Sì, ma è fino, capito? È fino. Io l'avevo levata perché le colombe mi avevano portato via tutti i radiali. Ma quelli si potevano rimettere, li facevi, andavi da Bricco, li compravi come ho fatto io per la Mantova, li ho presi prima avuti, poi li hanno troccati di nuovo, poi li ho presi di quelli pieni e non me li hai più troccati, li ho messo un dado passante e non me li ha più troccati. E allora io lo sapevo, allora mi aveva dato il tubo, mi aveva dato l'antenna e basta, e se me lo sono comprato nuovo. Con i radiali molto più lunghi, va a giù quasi 2 metri di radiali. E come la mia, la LEM lo stesso c'ha radiali lunghi, cioè non è come la Mato, ma ce li ha più lunghi, ce li ha molto più lunghi, e va bene dai, questa antenna io sono contento. Quando l'ho piazzata mi sono accorto che c'aveva la parte di sotto che si arrugginisce dove si attacca il piede, che nella Mato ma si arrugginiva, quella è in acciaio, non si arrugginerà mai quella lì. Ah, vabbè, questa che ho è buona. L'ho trovata in una super offerta perché è un'antenna a 150 euro. L'ho trovata a 90 euro a Napoli, addirittura a Milano e non ha subito. Ma è nuova? Sì, nuova. Il negozio si chiama Boh e adesso non menta. Vabbè, ma hai fatto un affare, quella lì è come la Mantova 5, è uguale identica. E la Diari lo stesso sono un po' deboli con l'antenna, perché ce l'aveva Marco Scorpion e gli ha perso il radiale. Quando si mettono le cornacchie come spiccare il vuoto lo trocca. Se lì ci sono cornacchie, mamma mia. Ah, Marco Collo ha avuto la vecchia, questa è la nuova che hanno riforzato. No, è un'altra di un'antenna diversa, è tutta riportata, non si portano via nulla. Vabbè, se l'hanno fatta diversamente allora sì, ma quando ce l'ha avuta Marco gli aveva preso il radiale, ma penso che siano le cornacchie, perché sai cosa fanno, come spiccano il volo, si danno lo slancio e si spezza. Sì, infatti questo si chiama la New Tornado. New Tornado, nuova Tornado. L'hanno veramente rinforzata alla grande. Allora, ma c'è una bella antenna e anche da prima era bella come struttura, è bella massiccia. Sì, no, già va bene, per quanto l'ho pagato va bene. Ah, va benissimo. KK, io la mia l'ho pagata a 70 euro, non lo so. Hai fatto una affare sì. E tieni conto che è bassa, La dobbiamo con Massimo e Claudio la dobbiamo sollevare, perché è bassa. Ma un tubo d'acciaio non lo buschi, che se vi ha delle vigne ce n'è uno per un'antenna di televisore, è un peccato, è sprecato. In via delle Vigne e anche in via Principe di Piemonte, in quella casa bassa che c'è tipo villetta rimane, che era di coso, ma come cavolo si chiamava, se mi viene già, se te lo dico. E tutto è l'acciaio, casi l'acciaio inox, come i tubi che ci sono lungo mare. Ce l'ho il tubo, lungo 5 metri, ce l'ho. Devo trovare il tempo bello, cambio direttamente il tubo, niente, c'era il tubo, è già pronto, ce l'ho sotto a casa. Allora va bene, ma è acciaio? È acciaio zingato. Quello lì è di lusso almeno, perché se non lo pigi nemmeno si vede una gara, non piega. Sarà un pollice, grosso un pollice credo, forse anche di più. Allora, anticamente sai come li mettevano i tubi? Ci mettevano nel muro, ho visto che i punteggi che mettono per attaccare un punteggio con l'altro, che mettono quella morsa, quel morsetto ammulonato, quello lì lo mettevano dentro al muro, facevano passare, lo incementavano e facevano passare il palo dentro. Il mio l'ho attaccata l'antenna, io ho un tubo che è attaccato a un altro tubo maestro, il mio padre aveva bucato tre mattoni, gli avevo messo questo tubo e incementato forte e non andava in nessun luogo. Beh, riprendi a chi tocca, Tore, riprendi tu. Fa bene se gli mette quel tubo d'acciaio, non è parabio, è rubigia. Poi io ci ho messo dei tubi da 3 metri, ci ho messo tutte e 3 antenne. Che ha fatto le via delle vigne? Cioè per un'antenna di televisore, perché la casa è bassa, questo tubo è in acciaio, ma è alto, sarà un 12 metri, per uscire l'antenna fuori, capito? Perché sennò non pisava. Sì, io lo so, sì. Se non deve essere uno qua giù, ci ha sollevato il tubo e ci ha messo d'acciaio, qua sulla via. E le antenne sono alte, sono. E gli ha messo anche i cavi in acciaio, tutti in acciaio anche. Ha messo quei cavi che si usano per trainare, quelli, e da lì non scappi. Se rimane il coso del tubo è un bel alto e ne ha messo due piani di cavi, perché è molto alto il palo, non lo so se l'ha mai visto in giro, non ci ha mai fatto caso forse. E speriamo che gli abbia messo qualche capo a terra di massa, anche se passa anche il fulmine, tentami lo zoppo. Allora a me mi ha detto un tecnico che i cavi di massa non si mettono nelle antenne, perché quello ti attira i fulmini. Dici, ma così mi ha detto un tecnico che fa questo lavoro qua, mi ha detto non si mettono mai cavi di massa, i cavi di massa devono essere del palazzo, non sull'antenna. Infatti così, non si mettono, no, perché sennò fa venire tiraggio dall'antenna, farà fulmine. E poi il cavo di massa cosa fa? Prende il fulmine e lo scarica, no? Però se tu glielo metti attaccato all'antenna, lo scarica sull'antenna. No, perché è sotto il filo, lo scarica sul filo, scarica. Chi è avanti? Chi è che vuole entrare? Hanno fatto un break, da lontano, un bel lontano, chissà dov'è. E noi magari non lo intendiamo. Io già non intendo, devi dire lontano. Magari salire in macchina, non lo so, era basso basso. E che ne senti tutti? No, ero al telefono, non ci ho fatto caso. Cappa. Adesso stai usando il Kenwood? Era solo quello. Non gli altri parati. Non pensavo che ne avessi altri. Ma il Galaxy non ce l'hai più? No, non ce l'ho più il Galaxy. Il Galaxy l'avevo venduto a coso, a Pomponio. Non ce l'ho più il Galaxy. Cosa mi tengo a fare? No, c'ho solo questo e basta. Niente. Sì, ne ho un altro, piccolino, ma quello è l'originale del camper. Sì, se c'è il posto il gas me l'apparecchio, c'ha tutto, il resto scendo col gas, per dire. Sì, ma voglio dire, cosa me ne faccio di tanti apparati? Basta uno, quello che ho, basta e avanza. Ma lo sai come siamo un po' fissati noi, perché ci piacciono magari vederli nella stazione, sa. A me per dire mi piace, c'ho il Lewis, c'ho un altro Cobra, che sono belli da vedere, capito? In stazione tutti illuminati, tutti. No, a me mi riempie l'occhio. Mi risenti parlando? Sì, già risento. Sì, ma alla fine io uso solo questo, cioè non mi interessa averne altri, c'ho questo, mi sfrutto questo, funziona bene e niente, capito? Così non lo tengo mai spento e funziona bene. Ti ripeto, l'unico che ho è questo piccolino, non ha neanche smitter, perché l'originale è il camper. Ma è un casino, perché quando c'hai un apparato solo, se magari c'è qualche problema, poi non ne hai altri, invece quando ne hai tanti, usi gli altri. Se capita un problema, che t'ha già lì, riparerò e per qualche tempo non entro in radio, non è tutto questo il problema. E ognuno c'è modo di vedere le cose. Avanti, a chi tocca. Cazzo, a chi mai sai se non entri un giorno in frequenza? Io entro tutti i giorni. Ho capito che entri tutti i giorni, ma se non entri per 2 o 3 giorni per altri motivi, mica stai male. No, male, non ne faccio una malattia di certo, non ne faccio una malattia. Però mi manca, perché sono abituato a farlo e quindi un po' mi manca, non ne faccio una malattia di certo. Se devo fare altro io do la priorità senza le cose, poi questo è un passatempo. È un passatempo, la compagnia per me è un modo di socializzare con gli altri. Avanti, poi. E lì sono d'accordissimo con te, non c'è nessun problema. Ma uno come me che ha 1000 hobby, io faccio pure 4 moto da tenermi conto. Quindi se non ho l'apparato scendo in garage e mi metto a girare con le moto e il tempo mi passa lo stesso. Cavagato. E vabbè, anche io canto, c'ho l'hobby della pesca, della fotografia, ma sono tutti hobby dispendiosi. Ogni volta che fai un passo per comprare qualcosa ci butti via, oddio. Sono cose belle, perché se è la passione sono belle. C'ho la passione della acquirofilia, c'è pappagalli, c'ho un sacco di passioni. Beh, dispendiose. Io da poco mi sono comprato, il 5 dicembre ho ritirato un'altra moto nuova. Anche quelle sono passioni che costano. Ma non ve li secca, oppure secondo me? Diciamo che è nuova, che l'ho presa con pochissimi chilometri, perché il tipo che l'ha sbagliato comprandola si aspettava chissà cosa. Precede. Non faceva per lui, dai. E l'ho presa praticamente nuova, perché lui è un dottore, dall'ospedale a casa, però mi serviva qualcosa di più maneggevole, di più piccolo. Cos'è, un Harley? No, non è l'Harley, no. È un Africa Twin. La conosci l'Africa Twin? E la voglia, certo che la conosco, ce l'avevo un amico mio. Quella è alta, se non sei alto. Ma non è vero, io ci tocco tranquillamente e non sono altissimo. Beh, ma sono molto, non sono da cross, ma più o meno. Da enduro, vai, sono da enduro. Da fare chilometri, da viaggiare, siccome mi piace anche viaggiare sulla moto e va benissimo. Sì, adesso non ve le voto, ce l'aveva Roberto, lo dico io. Applicatino, era fissato. È una bella moto, è una bellissima moto, ma so che è veramente bella. No, le due Harley ce le ho in garage, cioè ne ho una in casa e l'altra in garage. Non l'avevi venduta quella che c'avevi da prima? No, non l'ho venduta. Ci ha pagato. Vabbè. Se hai la passione fai bene. Meglio vince che sento parlare di Giaisi. Vabbè. Io nel mio piccolo con mia moglie non ci facciamo mancare niente. Vabbè. Fate bene, che vi soddisfate se potete farlo, non c'è problema. Avanti, Tore. Mi è mancata la Ruzzi, si è staccato da giù il contatore. Non resistono a nulla il contatore, per carità. Mi sono dovuto scendere giù in magazzino a attaccarmi la Ruzzi. No, a lui non ce l'ha più fatto, ci hanno cambiato i contatori a lui. Non è venuto lei a cambiare i contatori, a lui ci hanno sostituito proprio i contatori, non ce l'ha più fatto. Adesso c'ha più chilo ma c'è il contatore, non lo fa più. Ehi, a me me lo sta facendo col contatore nuovo, me lo sta facendo. Se passi 3 kg fate del decoro, dopo devo staccare lo scaldabagno, anche se no attacco lo vorro. Climatizzatore e si stacca, è compreso. È un casino attaccare tutto dove si sta insieme. Io per dire, se attacco la lavatrice spengo lo scaldabagno, poi quando finisce la lavatrice attacco lo scaldabagno, faccio così adesso. Se no ogni volta mi tocca fare a giorno, se non mi lo sportello, lui. Un casino. O ci metti più chilo, guarda, oppure ti si stacca. Io ad esempio per evitare il problema mi sono fatto mettere 6 kg fatti. Infatti, basta aumentare i chili, ho fatto, l'ho detto, però paghi di più. Sì, paghi di più, paghi molto di più, però non hai il problema di accendere il condizionatore. Non attaccare robe scaldabagno, non ne ho, però insomma tutte le utenze che puoi utilizzare. Ma cosa c'è la caldaia? Sì, ho la caldaia a gas. E conviene? Tieni conto che a me 500 euro di gas mi fanno 2 anni e qualcosa. Che cattara. Ma lui usi pure per l'acqua calda, tutto qua? Oh, io uso solo l'acqua calda, solo per l'acqua calda e il gas della cucina, capito? Poi per riscaldarmi ho condizionatori, stufa pellet. Ho capito. Insomma, già non mi riprendo, dai. Avanti, Tore, pure fai girare se c'è qualcuno, vediamo un po' se è entrato qualcuno. Breccese. Buona femmina. Mi paga la luce. Abbagliamoci. Avanti il brecco. Ehi, Carlo, buonasera a todos. Gianni, Eugenio, Tore, Antonello e poi non so chi c'è. Ciao Carlo, vengo attraverso, sì. Oh, già, ero uscito perché è venuto mio amico prima e sono rientrato. Ma prima ero in radio, capito, dalle 5. Infatti Eugenio ci siamo sentiti un'ora e mezza fa circa. Ma no, io sono entrato verso le 6, un quarto. E vabbè, se uno va a fare è normale, c'ho le priorità prima. E io entro quando c'ho tempo, entro sempre, accendo, bene o male becco qualcuno, dai, qualcuno sulla 27, dai, lo trovi sempre, in un modo o nell'altro, capito? Chi c'è? Antonello? E prima c'eravamo in tanti, poi Bondoso se n'è andato, Claudio se n'è andato, che doveva cucinare, ci ascoltava ma ha detto che doveva pulire le verdure, che c'aveva gli asparagi da fare. Eia, Eugenio, ci sei ancora? Io sono qua ancora per qualche minuto, va? Benanera, com'è il ventoso lì a Porto Torres? Sì, sta sempre più rinforzando il vento. Ed è un problema. Sto vento ci ha un po' rotto le scatole. Ho visto, io sono rientrato da poco e anche bello freschetto, bello fresco. Ma perché ti sento peggio di radio? Stasera la radio era più bella. Come oggi? Questa sera ti sentivo meglio di radio. Non lo so cosa è successo. Il processore controlla. No, non ho toccato niente qua, assolutamente niente. Prova a premere il tasto approach. Premi quello lì e poi ti dico se è quello. Boh, così? Così è disinserito. Nell'altra maniera è inserito. Infatti era inserito. Sì, così è inserito. Però forse deve scaldare ancora la radio, è appena accesa. No, è calda, perché era accesa da prima, l'avevo lasciata accesa. Sì, un po' saturo, ma vicino al microfono stai parlando. Eia, adesso così meglio mi senti? Tutta un'altra cosa, sei troppo, era troppo vicino alla bocca al microfono. Eugenio, adesso come mi senti? Sempre male? No, adesso va molto meglio. Ti sentivo proprio, sembravo impazzato. Adesso ti sento molto meglio. Era saturo, saturo. Quando quel microfono lì deve essere precompresso, quel microfono, perché esce bene. Però deve essere a una certa distanza dalla bocca, se tu lo avvicini troppo, ti fa uscire come saturo. Ho capito, sì. Ogni tanto come cambi radio, ho capito, io ho l'abitudine con l'altro devi parlare più vicino, con questo più lontano, e quindi a volte è un attimo ad avvicinartelo troppo e quindi magari va in saturazione e si sente peggio. Così c'è una telefonata. Ah, Carlo, stai usando il 140? Sì, Eugenio. Ah, uguale al mio, dai. Speriamo adesso, quando fa tempo buono, se riesco a mettere l'altra antenna, magari esco anche meglio. Sperando che te la facciamo piazzare. Piano piano vedremo cosa riusciamo a combinare. Sperando che te la facciamo piazzare. Già me la piazzo nel terrazzo, non ti preoccupare. La piazzare lì è proprio vicino alla mantovana del tetto. La fa uscire subito fuori, basta mettere un tubo alto. Avanti, miau miau. Buonasera a tutti. Dove sei, a casa? Sì, a casa sono. Dal segnale me ne sono accorto, ho detto segnalone. Sta ritirando il vento, cazzo. Mi sta alzando di nuovo. Mamma mia, ma mi fa capo il fiume. Non esagerare. Cazzo, ultimamente la uso la modesta della plastica puri e non so come fare perché c'è il vento, si rabbusta. Vabbè, Ciccio. Mi ha fatto Ciccio. Beh, signori, alla le ha il cu. Io mi allontano, che devo cenare. Ciao, ci sentiamo domani, ciao, anzi stanotte se coincide. Ciao. Ciao, risentiamo. Lo sai che tu devi avere il passaporto, se no la prossima volta non ti faccio passare. Ma dai, chi vai? Dico che per lì a foto ci vuole il passaporto, la prossima volta non ti faccio passare. Cazzo sta succedendo qua? SVR c'era. Eia, non ti preoccupare. Babbo, ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao. Un attimino a vedere la ghiaccio, mamma mia. Stiamo mangiando i crostini di pane, cioè, ma ho fatto le pizzette con i crostini di pane oggi. Buona rete, so. E che grassi. Vabbè. Mi tu ci ha mangiato a uffa dura. E che grassi, anche tu che la faccia fermenta sempre. A me è tanti la gioia. Io sono un figurino, so. Tra poco ma noi lo mandiamo a fare le cirate di moda. Ah, che tra poco non si vede manco la signorina. Io sono un figurino, so. Canti che basta di magna. Signor Dio, non me la vedo senza anche se ce la faccia, hai capito? L'hai visto quel video che ti ho mandato? Sì, già l'ho visto. Cazzo, quello era il circoncilio. Cazzo, mamma mia, mi so... ero morto, chi su niente cosa ha combinato, hai visto? Credo che va via a fianco di voi, con cazzo se ne ha cavata fuori. Io non l'ho visto tutto, altro, dico la verità, perché tu che hanno telefonato e l'ho mollato. Ma dopo già vado a guardare. Guardalo, guardalo, non ha detto che va via via con i poi pura, ha detto. E quindi, vabbè, se ne ha cavata pure, se ne ha cavata. Per carità. Oh no, stavo morendo dalle risate qua. E chi sa che va via la cosa imperiale, cazzo, un altro pure di capo mio. Gesù, cazzo, guardati dopo, ti bici dalle risate. Mia, ma va bene. Pare ci sei ancora tu? Sì, che ci sono, sto ascoltando. Sì, perché è più forte, ma c'è il passendo. Sento proprio che deve andare a farsi cazzo. E mi sa che Ghisarro e mamma di uno dei giornali, da voi dei bacini. Sì, ma chi c'è ancora? Deve giornare all'ultimo. Continuo così e mi trovo un buro. Perché? Ma ci sono cacchettine, anche di redene, che dà le redene, un vicino di casa. E tu, e la città a fare da, ti trombi. Aspetta, ho coccomane. E chi è coccomane? Non gli do più il rum. Vabbè, allora mi fa comunque. Ma c'è qua coccomane? Sì, c'è coccomane. Claudio, tu sì. Già sono io, ma non c'è più nessuno. Sì, c'è Tore, ci sono io, c'è Cirgo mio, Antonio, che c'è le dice. Oh, ciao Manuele, ciao anche Antonio, Tore ti ho salutato poco fa, ti saluto di nuovo. Il comandante non c'è, andato via. Chi Massimilia? No, comandante è Eugenio, comandante del porto è Eugenio, Massimiliano è il comandante di Braghetta. Sì, Eugenio è andato a cenare, anche Massimiliano è andato giù perché l'hanno chiamato. Quindi sono andati via tutti. Hola, cosa c'era Massimiliano? Massimiliano non è andato a cenare, l'avevano chiamato giù, Massimiliano c'era alle 9. Claudio, l'hanno chiamato, ha detto se ce la faceva rientrava. Ma non è andata a cenare, Massimiliano cena tardi. Eugenio è che, siccome lui lavora a porto con i continentali, cena l'ora dei genovesi. E infatti ha detto Eugenio è andato a cenare, Massimiliano è sceso giù perché l'hanno chiamato, ha detto così io. Beh, Musi. Beh, Claudio, buonasera. Ma Manuele invece, Manuele ce l'ha mai niente sicuramente, sempre che nascendi. Ah, già ci sono qua, buonasera. Ci sono piccapongo, tutti e due. Ciao. Oh già, cioè sento Manuele con l'antennino di macchina e lui sente a me. E chi tu dici se non mi intendi? Anisai tu? Hai ragione che la zona appunto che non ha piazzata, la piazzata bassa quell'antenna. Sicuramente non ha varco per arrivare verso di te. Ma come fanno ad avere il varco già se a me Franco che è attaccato a lui mi arriva 9 più 10 con la radio grande e 9 con la radio piccola e io arrivo altrettanto a lui con lo stesso segnale, come fa lui a non sentirmi? Mi sente lontano, ma lontano in D. Che lì mi pongo sotto casa, vedete, con l'antennino mio. Sicuro che già ti sente, perché a me già mi arriva 7.000, non è che io non c'ho la ricezione. Se non arrivo a lui, lui non arriva a me, ci siamo, la matematica è quella, no? Vuol dire che la mia zona è favorevole per lui, se lui a me mi arriva è lui che non sente, sente a voi perché siete vicini in linea d'aria, ma altri non li sente. Forse tu sei più in alto di lui, rispetto a lui sei più in alto e dall'alto verso il basso arriva bene, invece dal basso verso l'alto non ce la fa perché trova l'ostacolo. infatti lì non passa la collinetta dei Filighindo, mentre io la passo, capito? Però è molto molto strano. Vabbè, perché sente basso un po' a tutti. A te ti sente bene Antonio, che siete davanti, a chi è davanti a lui, ma a chi è dietro in città li sente più bassi. Ma è un inghippo, la frequenza è un inghippo. Basta che io mi ricordo, mi spostavo al quadrato, ma cosa ti posso dire, un millimetro, e mi diceva, devo segnare un altro, ma diversamente di due o tre segnali più alto, capito? Ma proprio l'ho spostato appena appena, una fesserina. Mica lo bugi da te ci ammendi, me l'avevi inteso. Sì, sto andando, infatti, sto andando a prepararmi, dai. Mi sto salutando, mi saluto adesso e vado. Adesso con chi si mette di dargli la base che augura, se vuole un casino, cazzo, mamma mia. Ma guarda, ci sentiamo. Ciao! Ciao Gio, accoppiti bene che c'è una maestralata, la paura stava anche piovendo poco fa, infatti ho già chiuso gli sportelloni, di solito li chiudo dopo cena, ma li ho già chiusi perché c'è un vento freddo, ma freddo. L'ho visto. Sì, più coperto di me, c'è un giubbotto da neve, la sciarpa, un giubbotto della tuta sotto, più un maglione, infatti non conosco. Aspetta che andrà a ciambare Ghizzo, che secondo me se l'hai fatta addosso, dai, ti prendo dopo. Inizia a abituarlo a sedere nel vatte adesso, Bizzino, che è già ora. Ciao a tutti, ciao. Ma sai che devo fare? Ciao, ma non le metti niente a Tyson, non c'era la cosa, la pettolina, la sopra, non le metti niente a Tyson per non bagnarsi? Sì, c'è il giubbotto impermeabile. Mettilo un pochino, perché se si bagna è un casino. Io glielo mettevo sempre anche per uscire fuori in giardino quando stava piovendo a Filippo, ma entrava e usciva in fretta, però glielo mettevo lo stesso, se no si bagnava. Va bene, ciao, dai, ci sentiamo dopo. Dimmi a dove sei detto a cambiare il bambino. Attore, ditemi. Allora Gita Antonio, mi vai subito vicino, ovviglioro, e ora gli le faccia fare la pipina in bagno, non che se la fa ancora addosso. Il pannolino non le prende, non lo so come fa lui, non so se glielo sta mettendo, se se la fa addosso ha bisogno del pannolino allora. Io la vedo buonare all'inverso il pannolino, tu. Emanuele, cioè secondo me è già ora di toglierglielo, di segnarlo e fare la pipì in bagno e dire mamma, papà, la pipì, come ti sei segnato a tutti, e se no ce l'avremmo tutti i mondandi. E beh, a quell'età sì, che c'ha 3 anni, che sera pannolino non è tuo agli. Appunto Emanuele, quello sto dicendo, come mai ancora c'è il pannolino sto bambino, già grandetto? E quello perché non gliel'ha insegnato il padre. Oi, Antonio. Ma ti porto più, Antonio. Non ti porto più. Io a 1 anno e mezzo non avevo più pannolino. Sì, a 1 anno e mezzo ero già mangiato della batta asciutta io, altro che pannolino, Ma che? Non mi sembro, nonno, già con i dentini, come se la rustigare a garri, giuppa. Sì, mira, che ho 3 anni, mia madre mi ha detto che mi sono imbriagato e sono stato 5 litri un minuto. Si è spaventata, ci ha mandato fuori, ha detto lasciatelo dormire, finché dorme, è tranquillo. Ehi, più di una volta faceva assaggiare il vino, nonno. Vieni che non ti fa niente al nonno, bevi, mamma sbaglia a bozzi, ti ho detto non darmene, e infatti a me piace il vino, e altre cose non le bevo io. Ma sai con cosa mi sono imbriagato? Con il cuore strega. Mamma mia che buona, lo sai che io ce l'ho, io dopo il caffè me la bevo sempre un goccettino, è troppo buona, anche questa mucca è, perché è aromatizzata, capito? Fai che ma mi hai detto di così drummito, ma inteso in più. Non parlerò di buia più, ma si rimane il viraggio, se no si verrà in braga. Vabbè, non possiamo raccontare quello che abbiamo combinato da bambini. Ah, ma il problema è un altro, hai capito? Perché fino a quando i bambini, i ragazzini e i ragazzi fanno queste cose non fanno male a nessuno. Il problema è che va, si ammazzano i fraelli, sono tutti armati. Per quello è che c'è da temere quelli lì adesso, che sono i loro cucchetti, dici. Ma se se ne difendevo le mani. Che schifo, cazzo, a 14 anni già col coltello in tasca, cazzo, anche a scuola vanno col coltello. Roba, io quando sento queste cose mi incazzo, perché dico, ma questi cazzo non ne hanno genitori. Ma che a scuola dove era mio nipote, che ha 13 anni, cazzo, si è dovuto affarrare con Fizzo, ne ha pigliato un guzzetto, ne ha pigliato e ha tutta la caffiotti, ha tutto. Mio nipote mi, che faceva arte marziale, immagini, ne ha pigliato un guzzetto, ne ha fatto un paio di giaffi. Si è andato a casa sua, ha chiamato un fratello di un anno. Ha aggiunto un fratello e sono dovuto intervenire io. Beh, che fratello sempre così, capito? Prima buca, la moglie lo dico a babbo, già lo dico a mio fratello. Ah, prima buca il barò. Ti ha fatto un paio di caffiotti, ti racconto, mio nipote, e ne ha pigliato un guzzetto. E poi gli ha detto, mio nipote, questo è il coltello di tuo fratello. Beh, gliel'ho preso, gli ho dato un paio di schiaffi perché è venuto col coltello. Ha fatto bene. E il resto gli avrei dato io, fatto a fratello Manno. E vi ho fatto un altro giaffo. E ha pigliato a fare di bene, ha pigliato un fratello. Mi ha chiamato a Baghito e si è venuto un guzzetto di nuovi. Certo, mi fai a fare a me, fai a parlare, si è buttato da casa, non ha mandato manca cura. Che schifo, ma non stai sentendo la televisione, i casini che ci sono, questi ragazzini cazzo stanno, per carità, a scuola con i coltelli, con le pistole, cioè non c'è più nessuna educazione. Evidentemente i genitori sono peggio dei figli. Anche a me mamma mi troncava l'osso di Lugurdo, mi troncava se faceva una cosa del genere, ma stai scherzando? Ma io non ho fatto mai cose del genere, giocavo, facevo, no? Non mi venderanno dei cose, ma lo favo sì, ma giocando però, no, non ho fatto mai a nessuno. Vabbè, ci siamo sempre difesi, io mi sono sempre difeso in quello che potevo fare, però di queste cazzate non ne ho mai fatto, perché sono veramente cose vergognose. Cazzo, però vai, hai sicuro buttito, ma cosa ci fa vedere? No, non è... nella gioventù di oggi non mi piace mai nulla. Infatti quando rivego taglio carriera, taglio quando c'ho a fare le cose, taglio strada. No, non mi interessa più. Io una volta mi sono messo, ma quando abitavo a Porto Torres, in piazza Garibaldi, a difendere a separare un amico per a chi le rivenda a pezzi, e ha giubilato un colpo in muro io, perché mi è arrivato un colpo di non so se era un bastone, qualcosa, cazzo dietro la nucca, a giovane mi c'è bellezza, ma ho tennati. Io lo stesso, per difendere un amico mi sono vestito di giù a Bruio, no? Ha detto, arrangia da rasura, per giubate che ti sei buttato in mezzo, ma me ne sono andato. No, ma che, io sono dovuto andare perché, cazzo, mi arrivi detto Maria del Roccio a capo, a giovane mi faceva un capo, ma già l'aggiavo da rasura da voi. C'era già una giornata da buio, per carità, guarda che schifo. Però c'erano queste cose così, dai. Non è che c'erano armi da taglio, pistole, eccetera. Erano per la fase di agurimane, pigliava la manico di un bicco. Purtroppo era così, quello che trovavi. Ma adesso è veramente vergognoso, va ti parani, ti bugnareggiani. È impressionante. Ecco, non so buttato mai quando c'erano i fascisti e i comunisti in piazza d'Italia che facciano i gasini, ecco, e si afferrano e tutto, ed è un mese bugia da inchivi. Sapete, Giovanotti, quei gustetti, Vittori, che si ammazzano pure, non mi interessa più nulla di stare in mezzo. Ogni andate che non tengo coso, ti giuri bene mennando. Ma infatti, la stessa cosa ti dico, no, non mi interessa niente. Ti si impicchiano intanto, è così. Manuel, appendici, no? No, qua, sto preparando da mangiare, e beh. Io lo stesso, già pronto, sono già pronto, verso le 8, non tomerò un quarto, vado a vedermi un TG e poi ceniamo, intanto avevo freddo, ora laggiù, riscaldamento atteso, sta così bene a casa. Lo so, oggi va freddo così, oggi è tempo brutto, tutta la riprendeva, non so che ci dà lupo, malissimo. Eia, eccomi qua. Domani è peggio, domani è peggio. Sì, domani ha dato un'altra passata di perturbazione, acqua e vento forte, avanti Antu. Oggi mi sono, ero in macchina oggi. Già si stava bene in macchina. Mi sono parato, perché cosa, Gabriele, minigumbina e tutti i canti di curora allora il pranzo. Allora cosa posso? Finisco di fare le pulizie e tutto. Quindi io mi si fare in macchina con Edo e pongo in moto. E sono lì, ma pongo la Formula 1, mi pongo me la paio. Ma non ti fa riposare, non ti fa rilassare Gabriele, devi combinare tre curori. Vabbè, un bambino, Ma come mai Anton ancora non ha detto col panno? Stiamo cercando di toglierglielo. Insisti, bambino. A quell'età deve fare già la pipì in bagno. Non è che di nero rubanolino questa tre anni, no? Già me lo dice già. Pipì, papà, pipì! Adesso lo sto già portando io. E dico, ti faccio lì non vento. Vabbè, se inizia già a avvisarti è buono, però stai attento che è già ora di toglierglielo. A Maragana, perché c'è già l'età per poter fare la pipì in bagno. Vai, Ito. Fate così. Io e mio figlio ho imparato subito andavano in bagno, accompagnava la mamma e andavano in bagno subito a tre anni. Buonasera. E cacca quando vuole andare. E adesso sto cercando, sono assistente a toglierglielo. Piano piano devi toglierglielo, Anto, piano piano, le insegni che deve andare in bagno. Avanti Tony, buonasera. Ora più radio. Non sei uscito? Non stai uscendo? Aspetta. Adesso sì. Saluto a tutti quanti, circolare, dai. Emanuele, Torre, cioè Antonio, l'altro intero me, sono già ubriaco. Sto uscendo, sì. Ok. Emanuele, Claudio, Antonio, sì, e Torre. Dai, sono tutti, c'è Vittorio Ascoltone, non lo so. Sto uscendo, Claudio. No, mi piace la radio, ti porti un fruscio sotto, c'è qualcosa nel microfono. No, Tony, c'è qualcosa che non va nel microfono. Guarda così, 1, 2, 3. Sì, sembra di sì. Volevo chiedere, com'è questa radio? Buona? Alla grande. Questa è il Cobra, E allora, pone lo Cobra, invece sta sempre con il Cipito. Andate oggi per già anda. Ma sto dicendo, questa radio è buona rispetto a quegli altri che usi. Sì, sì, questo è bello, questo qua è il Cobra. L'ho già uso anche questo. Adesso vado in camera da letto, dai, comuto vado in camera da letto. Voglio mettermi come si vira buio in camera da letto. No, in camera da letto io ando a dormire a trubbia. Avanti Tony. Emanuele. Cos'è? Emanuele. Stava cucinando Tony. Che perché sto cucinando? Ma c'è? Devo pure sapere cos'è consente. E poi devo stare attento alla sua salute, perché io sei grasso troppo, vedo un palloncino pure. Niente, io mi sto facendo le mie zampene con i broccoletti e un po' di panna, Ocla. Invece sto facendo, ho già preparato, tagliato gli asparagi, già conditi, tutto fatto, già pronti, e poi più tardi faccio una bella frittata di asparagi, mi hanno regalati. Che non è caro, cioè, dai che mi sforzo di girare la pasta, ok? Continuate, riparto subito. Però controlli quel microfono perché c'hai un fruscio, non sei pulito come sempre di radio, Dottore, bene lo senti a Tonino? No, per come lo senti tu lo sento io. non stavo uscendo come deve uscire gli altri giorni. C'è un fruscio sotto, pare UQRM, boh, sicuramente il microfono che c'ha problema, c'è la batteria scarica, non lo so. Boh. Adesso infatti, fatto è così. Non si deve mettere a posto il microfono, si deve mettere a posto. E tu, Rugappa, sempre così te l'attendi, sì? Io? Vedo. Io sto adoperando, adesso sto adoperando le presidente è più l'MP5 sto adoperando. Ce l'ho anch'io, l'MP4 e l'MP5, non ho detto, ma il K non lo stai più usando il cable? Sì, ogni tanto l'accendo, fine settimana sempre l'accendo, ma me lo devo accendere un'ora prima, me lo devo accendere. È una radio un po' particolare, infatti a volte la lascio accesa, ad esempio mi sono riposato ma era accesa, quindi è bella calda e sta dando 10 watt, 15 watt di portante, 30 modulati. Si raccende te buona fabbrica da 3 watt. Infatti, è così. Ma volte accendo questo perché posso vedere la fabbrica e prima guardo, sto 5 minuti in ascolto, vedo chi c'è, poi entro e ciao, vedo che agita, ma forse domani me l'accendo prima. Perché sono venuto dalla casa di mia figlia, vengo qua e accendo il televisore e la radio. Vabbè, non siete abituati, io lo tengo sempre acceso, Romaco, già per avventola, grande cagli, già per avventola che passi, non c'è problema. Manuel, ti stava chiamando tuo padrino, sentito là. Era giusto, tutti e due sempre a capo a paletta, gioca. Sì, ci deve pensare a una magna, forse deve andare a salute, a ridere, a provagliare. Ma è tuo, noi stava facendo più di turni, torna alla Caraibi. Ma lo so, non mi ha detto più nulla. L'altro giorno stavamo parlando di lavoro e mi ha detto che di notte non ci andava più, a chi non pagava. La notte va pagata, se vuoi che uno vada a lavorare va pagata. Ma io quando facevo le notti, 6 ore di notturno me lo pagavano, certo, pigliavo più di notturno che gli stipendio. Tante volte mi dirigiamo io con i colleghi, fai cacciare in più, facciamo un cambio, faccio la notte e tu fai la mattina, eia. Mi facevo anche 3 notti alla settimana, guadagnavo di più di notti che di lì. Ma da noi quando si rompeva il camion toccava trattare il camion di là che ha di notti. Ah, ma lo facevo tranquillo, ma lo facevo. Alle 5 ero a casa. Sì, alle 5 ero a casa. L'autista hai detto? No, l'autista ho iniziato a farlo dopo. Ma poi mi ero ad un furgone e facevo un giorno le pile, un giorno i farmaci scaduti, un giorno la roba elettrica e una giubbotta di cosa. Dopo tanti, dopo di 22 anni, gli ultimi 3 anni me ne sono fatti con il furgone. Ho capito. Ma il Capolagnone ancora travagliente? Figa, c'è ancora, sì. Ma le mancherà poco andarsene. No, secondo me le manca poco, forse quest'anno va via. Perché lui è iniziato ragazzo lo stesso, poi autista come Gina, insomma, è stato sempre autista. Capolagnone, vabbè, bel lavoro. Adesso c'è anche Cogio entrato, Mario, non mi ricordo, abita a Cremonazzi. Com'è Claudio la radio adesso? 1, 2, 3, prova. Adesso mi sembri tu, però ti porti appresso un fuscio. Secondo me c'è la batteria scarica. La devo controllare, lo dai. Ho il test in macchina, vabbè. Dai, continuaci a prepararmi la pasta che è quasi pronta. Dai, ci sentiamo per caso. State bene, buon proseguo. Ciao Tony, ciao. No, ma la modulazione c'è, però c'è questo fruscio sotto che è causato sempre da questa, dalla batteria un po' scarica, capito? Controllatela dopo. Siamo qua se vuoi entrare, vai tu. Eccolo. Ciao Tony. Buonasera, se la devi fare. Ok, ci risentiamo. Ok, grazie a tutto, ciao. eccomi qua. Ma poi la bassa mi rivolgi, sei troppo alto. Troppo alto. Che? Abbiamo tutto un 8 ore che c'è ancora, va. Sì, sicuramente la camera che ti rimbomba. Ma andava così, così. Così è Claudio, la camera se lo rimbomba. Ma che vita mia. Sì, la camera è dove è sempre a bozze. Chi è? Chi è che vuole entrare? Ma gli ultimo fa vedere, e te ce l'hai do carriera. Ma no, ha detto. Vabbè, io, Claudio, io chiudo perché mi devo prendere fastidio. Dai, ci risentiamo alle prossime. A domani, se tutto va bene. Ok, ciao a tutti. Anche agli ascoltoni. Ok, ciao, ciao Antonio. Ciao, ciao, vieni avanti, vieni. Ciao, vai qua. Ciao, zio To, alle prossime. A domani. Avanti, chi è che vuole entrare? Buonasera, come va? Chi sei, Giovanni? Qua di Roger. Ah? Ah, Giovanni, ciao, buonasera. Basso ti sento oggi, come ti mai? Qua non lo so, forse è perché l'ho appena chiesto, non lo so. Ti sento basso oggi, ti sento basso, vabbè che fendeva, c'è un po' di QRM, vai Antu. Esatto, no, qua ci arriva bene. Arriva bene qua. Più lontano di Antonio. Sì, lui è più lontano, sì, lui è molto più lontano, ho capito. Allora, è dentro di Roma a te, sì. Però sono chi da su, e non intendi. Noi è una zona bassa, mi capito, qua. E lo senti lo stesso. No, lo sento, a differenza di Ghidazzo, lui mi arriva bene, mi arriva, non ci sono problemi, un po' più basso, però già mi arriva e lui mi sente a me, ma Ghidazzo invece non intende proprio nulla, vai Giovanni. Vabbè, non è, te l'ha detto Antonio che è un apparecchietto piccolino, dai, non è che li puoi pretendere molto, dai, poi io sono qua, in pratica sono sotto a sorso, dai. Sono a Ributtangari, magari già lo sai dove è. Quindi sono accerchiato dai monti e è già qualcosa che mi ascolti, capito? Ma arrivi Giovanni, io ti sento e tu mi senti. Sampi, a me non mi intendi, capito mi hai? Io sono nella strada Peruzzi, non è che sono Cazzassari, sono distante da te, però mi arrivi e tu mi senti, mentre Gianni Sampi a me non mi intendi. Scusate un attimo che c'è il cane che mi sta sbagliando un attimo. Cappa, allora sai quanto è mai, ti rammenti l'arrivo? Beh, quella lì sta usando. Quella lì sta usando. Ah, stamattina sentire i segnali furti che arrivano in quella zona, soprattutto da fuori. Forse è la bomba. Sì, già lo vedo, zona mare, per dirti non so. Il problema non è mio, se Giovanni mi sente e che più o meno in Chivi e io lo sento, vuol dire che l'antenna di Giovanni funziona di me, l'altra invece ti vuole appaddare un gomodo. Va 4 watt, se attacco intendi. Vabbè. Bene, Anto, io ti lascio perché devo andare in cucina, dai. Ci sentiamo, salutami a Giovanni quando rientra, semmai ci sentiamo dopo, già lascio acceso qua. Ok? Beh, che abbiamo salutato. Era una crepa di cinghiali che qua ogni notte sono accerchiato da cinghiali. Vabbè Giovanni, fatti dire, c'è stato un break però saluto, avanti e poi mollo. Benissimo, ciao Claudio, ben sentito, ciao Antonio, ciao anche a Giovanni che lo sento 9-10. E ti volevo dire Claudio, a qua arrivi 9-10, la radio la solita, sempre forte. Benissimo, tanto riprendo, io lo chiudo perché sono so per salutare a Claudio, a tutti voi diciamo, e anche gli ascoltori. Avanti a tu. Capo, ciao Marino, buonasera. Vedi anche a coso. Ottava ti arriva benissimo. Kappa. Ruggero, se non vedi c'è anche per te, Maria, ciao, un abbraccio grande. Alle prossimine che sto andando in cucina. Ciao a tutti, ci sentiamo dopo, Antonio. Tranquillo, Claudio, tranquillo, già sentiamo, dai. Ok, Antonio, riprendi, io chiudo, che sono già so per salutare. Giovanni arriva, vabbè, Giovanni e Amelia siamo vicini, diciamo, dai. Ok, Giovanni, mi ascolti? Ma io ti ascolto anche bene, chiaro, perfetto. Ok, meglio così, dai, anch'io ti ascolto abbastanza forte. Antonio, riprendi, ciao. K, sì, sì, lui è il Don Arbutanga, arriva bene, per forza. Anche forse arriva più bene lui che io da qua. E vabbè, Anto, tu arrivi 9.15, 9.15 la radio è super, va benissimo. Kappa, alla grande. Ok, saluto a tutti, riprendi Giovanni, ciao. Giovanni, mi sta chiamando qui. Come? Ero distratto, beh, adesso devo mollare il cane perché se mi facciano casino nel pollaio, scusatemi. Ma... No, ti ha salutato Marino, ok. Ciao, ciao. Kappa. Giovanni, mamma mia. Tipo che ti dica. Stracco gioco. E avanti. Avanti, non mi scuola il telefono. Ciucciu. Ma tu? Hola. Infatti. Che bello, mi siete nessuno? Capa di sì, io ti sento, mi senti? Alessio da questa parte, salutoni, ben sentito. Chi è? Ehi, ciao Anto. Ciao, chi sei? Non ti ho riconosciuto. Adesso non mi hai conosciuto. Antonello. Ciao, Antonello. Mi scusa, il telefono poco fa. Capa, aiuto bu. Siccome è staccato il tempo, dove è stato questo, adesso aiuto bu. E non diceva più delle messe 900, non ci credo. Dai, sta uscendo adesso. Già va bene. Così sono basso, medio e alto. C'era anche Giovanni, non so se lo senti. Fallo modulato, vedete un po'. Avanti Giovanni. Allora, buonasera Pomponio, come va? Bene, bene. E tu come va? Questa vita di campagna, adesso c'era il cane con la porta chiusa, non me ne sono accorto, sono passati dei cinghiali. Senta, piglio un QFM questo baracchino, sentiamo il nome di QFM, c'è un questo allucinante, buh. Capo, Antonello, lo senti? Io l'ho sentito, ma... perché non lo sento più, sentito più? C'è passato il radio, c'è un QFM9, cazzo strano. Ora mi senti, Antonello? Adesso sì. Forse ho schiacciato male io il microfono, può darsi pure che non mi ha sentito per quello. Stavo dicendo, in campagna, la vita di campagna sto facendo. Adesso mi ho dovuto, c'era il cane chiuso nella veranda e non me ne sono accorto, sono passati i maiali, sono dovuto correre e aprirla. Se no mi attaccano il pollaio. Ho capito. Quindi stai facendo la vita di campagna. Se sei sceso lì, se sei sceso. Ma quando ti arriva lui? Avanti Giovanni, fa un passaggio. Ora. Segnale 9, era di 5 arriva. Ma è buona, Beh, sei in campagna, va bene. Il fatto che c'è un bel QFM io con questo Lafayette. Magari con l'altro ti ascolto anche meglio. Niente di strano. C'è un grido che va bene già, dall'altra parte della città. Ora... E poi che qua entra la maestrale proprio in canalotto. Stavolta è detto Bruscendio. Lui è dall'altra parte della città. E tu? Lui è dall'altra parte della città. Sassari. Ma Sassari è alto però. Ma cappa. Non pensavo di arrivare lì. Devi pensare dove c'è il Conti. Ma sono quattro fatte, si fanno infatti i guai. Ma dove c'è lui? Perché lui da che parte è? Lui è alle Buttangari. Di Sosso. Per essere a Sosso già arriva abbastanza bene. Io ci ho tappato sorso da quando hanno fatto tutte queste palazzine qua di fronte, è un casino. Ma considerando non è che sia un apparecchietto. Antonio ce lo conosce bene, che lo sa descrivere. Una volta plus a 4 watt si pone il bocco watt tipico, ma non sa come arrivano quelli da fuori in quella zona, è una cosa paurosa, cioè è una cosa paurosa proprio, cioè perché rispecchia molto il mare, capito? Lì lui riesce a muovere, cioè se lui mette il watt e mette un baracchino come si deve, lui una bomba, sente tutto il sasso, neanche fuori, cioè sente a tutti, anche nei paracaiti, sente a tutti, cioè, cioè è in basso, ma è una posizione che è una cosa micidiale. Quando l'ho sentito io mi sono cassucciato, ho detto cazzarola, ma si pone il radio in Kiwi guai. Sì, se allora di fronte al mare lì la forza arriva forte. C'è il mare che ti fa da specchio, capito? Ecco perché.